Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Terza parte della settimana di Eclettica. Vi ricordo il mio indirizzo di mail, giulio@radiorockfm.com, e anche l'indirizzo di MySpace, che è myspace.com/eclettica. L'indirizzo di mail potete scrivere se volete andare a vedere gratuitamente allo Zero Music Club di Azzano San Paolo Bergamo gli Amari, ed è l'unica data in questo periodo di rarefazione di date, come vi dicevo settimana scorsa, l'unica data che Eclettica mette in palio in questo periodo. Mia madre annegò la notte del 23 maggio, giorno del mio compleanno, nel tratto di mare di fronte alla località chiamata Spaccavento, a pochi chilometri da Minturno. Proprio in quella zona, alla fine degli anni 50, quando mio padre viveva ancora con noi, d'estate affittavamo una stanza in una casa contadina e trascorrevamo il mese di luglio dormendo in cinque, dentro pochi roventi metri quadri. Questo era l'incipit di L'amore molesto di Elena Ferrante. Thank you. death nor a lad butchering meat. We're made up of the same things, flesh and blood, tissue, organs. I love to work with pigs. The nearest thing in nature to the flesh of a man is the flesh of a pig. It don't matter when you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby. By the light of dawn and in my blues, day and night, I've been missing you. I've been thinking about you, baby. Come live with me. Born into trouble, you live the blue. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy. Qualche tempo fa mi arrivò la notizia che anticipava l'uscita del nuovo dei Twilight Singers assieme a Mark Lanegan e Joseph Arthur. Ero estremamente contento, così la notizia di per sé, Greg Dulle assieme a questi altri due nomi, era sicuramente positiva. Però purtroppo, e sapete che io non ho peli sulla lingua, all'ascolto questa si è rivelata una delusione. Stitch in Time, l'album, o meglio il mini da cui ci siamo ascoltati questo brano, in cui era presente Mark Lanegan, invece Joseph Arthur era presente in altri. Invece Eclettica si è aperta con Fledgling. In questo caso non parliamo di delusione, ma parliamo di sorpresa, in quanto è un esordio per Jacob's Stories, che grazie alla Gravity Deep arriva a noi. Di solito ci ascoltavamo Unfinished Idea Number 209, ma questa settimana abbiamo iniziato come pillola ad ascoltarci, e poi questa sera è tornata in eclettica anche Words to Live By, ed è questo il brano che ci siamo appena ascoltati. Ma avete qualche indizio su quale possa essere il film, fra l'altro in lingua inglese, di questa settimana? Avete riconosciuto qualche voce, magari quella di Leonardo DiCaprio? Questo consideratelo un aiuto. Ed ora vi faccio ascoltare uno dei più interessanti nomi italiani degli ultimi mesi. Loro sono i My Scars, introducing the Liquid Pets. Two of us. you're supposed to be. You're supposed to be, supposed to be my friend. You're supposed to be, supposed to be my friend. You're supposed to be, supposed to be my friend. You're supposed to be my friend now. Beat me, cheat me, try and feed me lies you picked up from those trendy ladies. But always be my friend, 'cause you're supposed to be my friend. Yo, start acting like you. Some dogs, but you're supposed to be. Stavo pensando una cosa proprio in questi ultimi secondi di canzone. Se andiamo a vedere sul totale della popolazione la percentuale di band ed artisti di qualità medio-alta che provengono dalla città di Glasgow, secondo me è una delle percentuali più alte in tutto il mondo. Per esempio questi, 1990s, sono una nuova band esteticamente estremamente così. Perché usare giri di parole brutti? Però dal punto di vista musicale sicuramente interessanti. Rough Trade è l'etichetta, You're Supposed to Be My Friend, il brano che ci siamo appena ascoltati. Poi su questo aspetto della bruttezza secondo me ci giocano anche un po', esagerandola. Per quanto riguarda Austin, Texas, probabilmente come numeri assoluti anche lì ci sono parecchie band e artisti di buona qualità, ma essendo, almeno se non mi sbaglio, molto più popolosa rispetto a Glasgow, la percentuale lì purtroppo scende. Comunque grande musica da quella città ultimamente, per esempio quella degli Oh No, Oh My, I Love You All The Time. Except when we go dying, you spend till my life. This is the liver. The kidneys. The heart. This is a wound. The stomach will bleed and bleed. This is a kill. This is a kill. The main artery. This is a kill. Sapete di dove sono questi La Chimera? Di Glasgow, tanto per confermare quanto detto pochi minuti fa. La Chimera, che ancora non hanno inciso niente ufficialmente, ma hanno fatto avere qualche traccia, compresa questa Seagull's Next, che ha chiuso la terza parte di Eclettica. Ne rimane ancora una prima di chiudere il 2006. Ma sapete un'altra cosa? Sapete qual è la popolazione di Glasgow. E sapete qual è la popolazione di Austin? Ho sfruttato questi minuti anche per andare su Wikipedia e risolvere il mio dilemma. Non è che poi siano così distanti, quindi sulle percentuali devo forse rivedere quanto detto prima, perché Glasgow è poco più di 500.000 abitanti e Austin è poco meno di 700.000. Si chiude qua con questa lezione di geografia. A domani per la ultima parte del 2006. Eclettica, fine della terza parte.